cui fare oggi riferimento è il numero 6, ecco, perché volevo dirvi, ognuno ha un suo numero di questi nostri riferimenti, e volevo anche darvi dei titoli che vi possono essere utili per poter ritrovare lo studio. Quindi, l'inizio, che ovviamente è 1, lo intitolerete la partenza. Il numero 2 è quello che comincia con "A part qu'elle bourgeois au premier". L'avete trovato? Subito dopo. Questo dato come titolo "Vestiti da viaggio". Poco dopo, il numero 3 comincia con "Cependant un long châle à bande violette". Va bene? Quello come titolo date "Lo scialle". Poi il numero 4, che è quello "C'était une romance orientale", gli date, comincia così appunto, "C'était une romance orientale", e come titolo date "Una romanza orientale". Il numero 5, che è quello che abbiamo considerato ieri per ultimo, è quello che comincia con "Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques". Ecco, quando lui grida il nome, Marie, il nome di lei, e a questo diamo, tra virgolette, quindi il nome Marie, con il punto esclamativo. Adesso andate al capitolo del libro, del romanzo, il numero 2, capitolo 1. Girate la pagina e nel capitolo, che è il capitoletto, quindi usiamo questa dizione, capitoletto per quanto riguarda i nostri e capitolo per quanto riguarda. Avete aperto tutto lì possibile? Rompete il vetro, fate qualcosa di... Hai aperto tutto? Avete anche là, se è possibile? È possibile? Non è possibile. Bene, era quello che si fa. Il capitolo di capitoletto di quest'oggi inizia con "Il parler de ce qui ferait plus tard". Questo è il capitoletto numero 6, a cui diamo come titolo, "Progetti di vita in comune". Bene. Quindi sia per lo studio questo vi può essere utile, sia anche per me, naturalmente come sempre all'esame, perché vi dico, prendete il capitolo tale e commentate il capitolo tale. Inutile dire, però, ripetita Juba, che il libro deve essere studiato, come ben sapete, nei dettagli. Quindi noi facciamo una lettura antologica, come ovvio, una lettura antologica, e quindi sarete interrogati sui capitoletti per quanto riguarda il commento. Ecco, bravo, faccia qualcosa per la pubblica salute. Ma è altresì vero che dovete sapere ogni dettaglio. Quando dico ogni dettaglio lo dico così in anticipo, par avance, cioè sapere, non so, chi è il personaggio più piccolo, se il personaggio più piccolo portava le calze viola o rosa. Questo, no? Deve essere molto chiaro. Introduciamo questo capitoletto 6 parlando di una cosa nuova, dell'amicizia fondamentale, d'altra parte, tra Frédéric e Delaurier. Delaurier è un ragazzo più grande di lui di 3 anni, e questo ragazzo vive una condizione familiare assai diversa dalla sua, molto disagiata, mentre Frédéric sta, insomma, in modo discreto. Il padre è un huissier, cioè un ufficiale, un usciere, un ufficiale giudiziario, diciamo così, ed è un tipaccio che picchia il figlio, sostanzialmente passa il suo tempo a picchiare il figlio. E quando rimane vedovo, la madre, che in qualche modo poteva aiutarlo, così, lui rimane completamente solo in balia di quest'uomo che detesta. Che tipo è Delaurier? Non dimenticate che c'è una prima versione, non prendo c'è una prima versione dell'educazione sentimentale, ricorderete, in cui si parla di due amici, e la trama è abbastanza secca, cioè l'amico, come dire, uno dei due è dedito all'arte, all'amore, l'altro è dedito invece a fare affari, sostanzialmente. Questa divisione in due parti, due amici, è abbastanza importante perché si riproduce poi nella versione finale, nella versione che noi abbiamo, e sta a significare non tanto due aspetti dell'animo flaubertiano, No, Flaubert è sempre uno dei due personaggi, qui nella fattispecie è Frédéric Moreau, ma l'altro, quello completamente diverso da lui, sta a rappresentare la sua antitesi esistenziale, cioè quello che lui non voleva essere, quello che sentiva come nemico nel mondo esterno. Amici così, diciamo così, non avrebbe voluto averlo, come devo dire. È però vero che ritiene che questo fatto dell'amicizia totale, della dedizione totale all'amico, sia una gran sciocchezza e uno dei miti più pericolosi dell'educazione sentimentale, che viene però individuata. Questo libro è un libro che, se capitasse oggi, stavo pensando, mutantis, tutto vorrebbe raccontare, che capitasse oggi sotto il giudizio della Chiesa Cattolica sarebbe visto molto male, perché è un libro distruttivo e disfattista. A partire da questo tema che stiamo dicendo, non è che l'amicizia non esista, ma non esistono i valori assoluti. Ecco, se c'è qualcosa che l'educazione dice è questo, che non esistono valori assoluti e forse, ci mettiamo questo forse davanti, neppure l'amore è un sentimento assoluto. Anche se tutto il libro è costruito, insomma, intorno a quest'idea dell'amore assoluto. Ma forse neppure l'amore è un sentimento assoluto. Di certo non lo è l'amicizia. Gli amici di Frédéric sono dei tipacci. Delorier è uno che sostanzialmente approfitta di lui. Siccome ha più soldi Frédéric, cerca in tutti i modi di avere dei prestiti da lui, perché qual è il suo scopo? Il suo scopo è quello di far carriera politica e di fondare un giornale. Questo giornale potrà mandare avanti le idee democratiche. All'epoca nel 1840 il problema delle idee democratiche era molto molto sentito, perché dovete pensare che il tema essenziale del primo Ottocento è praticamente sempre questo. C'è stata una rivoluzione, la rivoluzione francese, questa rivoluzione è stata continuata ma poi tradita da Napoleone e poi siamo tornati in una condizione peggiore della precedente, la restaurazione. Questo è sostanzialmente il grande tema. Quindi tutti i buoni non potranno che essere, tra virgolette, di sinistra. Quindi gli amici che si cerca Frédéric sono appunto, sempre tra virgolette naturalmente, sono di sinistra. Delorier è un democratico, è un rivoluzionario, e com'è come uomo? È un bastardo. E quello che dice sostanzialmente Flaubert è questa, è questo: sono tutti bastardi. Ecco, questa è forse la formulazione più precisa. Tutti sono mediocri e bastardi. Quindi non è più un fatto solo che riguardi Delorier, il quale cerca di fregare la donna che lui ama, che Frédéric ama, all'ultimo. Quindi il suo più caro amico cerca di soffiargli la donna. Ma quando vedremo in una delle pagine più straordinarie, più belle dell'educazione, quando, che nonostante il tradimento avvenuto, poi i due parlano insieme come se nulla fosse accaduto. Perché in effetti, secondo Flaubert, nulla è veramente accaduto. tutto quello che accade nella vita è, a ben vedere, insignificante. Voi capite che anche per quei tempi far passare, come si suol dire, un messaggio del genere era difficilissimo, perché siamo in epoca romantica, quindi questo libro non soltanto apparve disfattista, ma non si volle leggerlo, perché il problema dei grandi libri è proprio questo, che possono essere grandi questi libri, ma se non sono letti, se non sono assorbiti, se non sono percepiti, e l'educazione fu un libro appunto non adeguatamente percepito. Questo mandava in bestia il nostro Flobby Flobby, il quale ci arriva poi con Madame Bovary e diceva che se avesse potuto andare in tutte le librerie di Francia e trovare le copie rimanenti della Bovary, l'avrebbe distrutte con le sue mani. Erano un po' delle battute così, però in realtà lui si identificava soprattutto nel tipo di arte dell'educazione sentimentale. Uscendo da questa tematica ed andando a vedere adesso i due personaggi, Frédéric Delaunay, Frédéric Delaunay sono stati quindi compagni, si ritrovano a Parigi. 18 anni, 19 anni, la vita si sta aprendo. 18 anni lui, l'altro 21, si sta schiudendo la vita. E loro cominciano, prima di tutto, a sentire il piacere dell'amicizia. Normalmente in un essere umano le cose vanno così. Prima si sente, direi storicamente, il piacere, la possibilità dell'amicizia, cioè il rapporto con lo stesso sesso, no? E successivamente viene l'amore. Normalmente un maschio, usiamo questa terminologia, a quell'età ha dei rapporti di amicizia, a volte dispersivi, ma a volte invece molto solidi, e sogna l'amore. Lo sogna in un modo molto indistinto, come vedremo tra poco. Adesso parliamo dell'amicizia dei due. In questo capitoletto, lo traduco naturalmente come sempre subito, con un certo senso di rammarico, perché la bellezza del testo francese, la bellezza di qualunque testo originale, è sempre irriproducibile. Comunque, il parquet, parlavano di quello che avrebbero fatto più tardi, quando fu... questo qui non sarà ancora a Parigi, scusate. È la stessa, tutto questo discorso vale perfettamente, solo che siamo un momento prima di andare a Parigi, quando è arrivato lui a Nogent-sur-Seine, e trova questo amico con cui vivrà la vita assieme. Quindi sono a Nogent. Dopo il viaggio, dopo quello che abbiamo visto, parlavano di quello che avrebbero fatto più tardi quando fossero usciti dal collegio. E prima di tutto avrebbero fatto un gran viaggio col danaro che Frédéric avrebbe prelevato dai suoi beni all'età, alla sua maggiorità. E poi sarebbero tornati a Parigi, avrebbero lavorato insieme, non si sarebbero lasciati. E per distendersi, riposarsi dai loro lavori, avrebbero avuto degli amori di principesse in boudoir di seta, o folgoranti orge con cortigiane illustri. Dei dubbi succedevano ai loro trasporti di speranza, e dopo crisi di gaiezza verbosa cadevano in silenzi profondi. Le sere d'estate, furono tutti telefonini, sì? Le sere d'estate, quando avevano camminato per molto tempo sui sentieri pietrosi al bordo delle vigne o sulla strada maestra in aperta campagna, e quando il... Lei che fa, scusi? Ah, ecco. Cercate di non creare però comunque disturbi, questo quando si legge in particolare. Dunque. Le sere d'estate, quando avevano camminato per molto tempo sui sentieri pietrosi al bordo delle vigne o sulla strada maestra in aperta campagna, e il grano ondeggiava al sole mentre sentori di erba angelica passavano nell'aria, una sorta di soffocamento li prendeva e si stendevano sulla schiena, stortiti, inebriati, gli altri in maniche di camicia. Giocavano a Ruba Bandiera, conoscete il gioco di Ruba Bandiera? Giocavano a Ruba Bandiera o facevano partire degli aquiloni. Il sorvegliante li richiamava. tornavano allora seguendo i giardini che attraversavano piccoli ruscelli e poi i boulevard viali ombreggiati da vecchie mura. Le strade deserte risuonavano sotto il loro passo, il cancello si apriva, si risalivano le scale ed erano tristi come dopo grandi dissolutezze. Diciamo che dell'amicizia, tante volte vi ho detto che un luogo comune di schiacciante verità è che quando si è molto giovane non si capisce nulla della vita. Luogo comune di schiacciante verità, però una cosa i giovani, i ragazzi capiscono, l'amicizia, questa la capiscono. Direi che la capiscono come non si capisce poi più nella vita. Cioè l'amicizia è in qualche modo una specie di dono della giovinezza. Dopo non si è più amici. Non si è più amici perché vi sono interessi, vi sono contrasti, vi sono cinismi. E si diventa in qualche modo coriacei a questo delicatissimo sentimento che è l'amicizia. La cosa a cui pensano è di fare un gran viaggio. Questo grande viaggio è un po' un emblema della fuga. E delle affermazioni di sé nella fuga, naturalmente con denaro dell'uno, perché l'altro non ha soldi. Fare un gran viaggio e poi sarebbero tornati a Parigi e avrebbero lavorato insieme, non si sarebbero lasciati. Ecco perché, se voi guardate, nel concetto di amicizia sono proprio queste semplicissime parole quelle che danno un po' il là del sentimento, lo stare insieme. Cioè, se noi volessimo dire chi sono due amici sono due che stanno insieme e sono due che non si lasciano. È un altro modo per dire lo stare insieme, ma è un qualcosa di più. Cioè, l'amico non è soltanto uno che sta insieme, quindi fa delle attività con te, gioca con te, fa dello sport con te, eccetera, ma è anche uno che non ti lascia. Perché come mostra Flaubert, il più grande dolore della vita è quello di essere lasciato. E quindi l'amico è proprio quello che non ti lascia, che ti ha promesso di starti vicino. Non si sarebbero lasciati e avrebbero avuto, e qui si vede tutta l'ingenuità, direi l'infantilismo, di questi ragazzi che vengono dalla campagna, tutto sommato, dalla provincia, non dalla campagna, dalla provincia, avrebbero avuto grandi amori. Quali sono gli amori che si sognano a 18 anni? Allora, insomma, amori di principessa. Ecco, oggi forse, probabilmente, neanche il più sprovveduto dei ragazzi di oggi, qui all'università, sognerebbe un amore di principessa, insomma, amare principesse, oppure dei boudoir, perché allora poi le alcove di seta diventavano un luogo di inestinguibile desiderio, no? Le alcove in cui si potesse godere tutte le gioie del sesso, folgoranti orge con cortigiane illustre, vedete, ecco quello che in fondo poi è diventato uno dei piaceri di Berlusconi, qui le folgoranti orge con cortigiane illustre, e era anche il piacere di questi diciottenni, di questi ventenni di allora. Però poi, e qui è la cosa bellissima, però poi dopo questi empiti di entusiasmo che avevano, improvvisamente diventavano tristi. Perché diventavano tristi? Ma qui ognuno può, la letteratura deve servire a entrare nella nostra vita interiore, ognuno può misurare queste cose con la propria esperienza personale. Tutti noi, quando siamo stati in liete orge di amicizia con i nostri amici, un viaggio fuori, una festa, abbiamo avuto delle allegrie inconsulte, irragionevoli, e poi quando si tornava a casa o quando ci si distoglieva dal sogno, tutta questa gioia, questa enfasi del sentimento scompariva e ci si ritrovava con la povertà della situazione presente, no? In fondo noi cerchiamo sempre attraverso l'arte, attraverso i sentimenti, di sfuggire al quotidiano. E l'amicizia, L'amicizia è un, ascoltate bene questa considerazione, è un sottile modo per sfuggire al quotidiano. Voi dite, ma come? Ma se l'amicizia è quotidiana, come fa a essere un modo per sfuggire al quotidiano? E no, perché il quotidiano è fatto di piccole consuetudini, per l'appunto, che si ripetono, di doveri, eccetera. Ma il calore dell'amicizia è un qualcosa che rende sopportabile il quotidiano. Il fatto oggi, per esempio, tra voi, di sapere che c'è dall'altra parte del numero fisso del telefonino di chiamata, numero 6, il numero 7, una persona che se telefonate non vi dice di no, questo è un punto sostanziale, sapere che l'altro c'è. La sera tornano. Vorrei farvi notare quel punto a capo con cui inizia il capoverso Le soir de te. Vedete che prima si parla dei silenzi profondi. Il punto a capo sta a significare che ora ci deve essere una pausa. Una pausa perché il lettore mediti sui silenzi profondi che seguono agli scoppi di entusiasmo fra due amici. E Flaubert racconta, perché una sua abitudine è quella di coinvolgere continuamente il paesaggio nel racconto delle cose umane, racconta questo ritorno al collegio, questo ritorno a casa, qui era fattispecie, non al collegio. Le sere d'estate tornavano costeggiando le vigne in aperta campagna. Attenzione, come si deve leggere? Qui nella fattispecie Flaubert, ma direi in assoluto. Appena il piacere vi tocca, il piacere di quello che state leggendo, dovete rallentare la lettura. È un qualcosa di assolutamente simile a quello che avviene nella sessualità, per dire un piacere molto intenso, molto forte. Chi legge correndo quando è di fronte a un piacere estetico che può essere una specie di libro, ma anche la fruizione di un quadro, di un film, sbaglia. Il vero piacere estetico sta nella capacità di rallentarsi e di rallentare. E al tempo stesso, nella capacità di evocare. Allora, se vogliamo leggere per bene questa pagina, qui dobbiamo fermarci per evocare. Quindi quando dice le sere d'estate, noi dobbiamo ricordare che cos'è una sera d'estate. E io sono certo che ognuno di noi ricorda che cos'è una sera d'estate. È una giornata questa di primavera che un po' insolentemente si è introdotta nel freddo delle nostre giornate marzoline, no? Le sere d'estate sono lontane, ma voi sapete benissimo che cos'è una sera d'estate. Il calore immoderato di una sera d'estate, il senso di vacanza, il senso di pace, l'eventuale allegria. E allora, arrivati alla parola sera, all'espressione sere d'estate, dobbiamo fermarci fisicamente e pensare che cos'è una sera d'estate. E a questo punto dobbiamo pensare che cos'è tutto quello che vediamo, le sere d'estate. I sentieri pietrosi, che dir si voglia, che costeggiano le vigne. Avete visto le vigne, sapete che cos'è una vigna. O la strada maestra in aperta campagna. La strada maestra in aperta campagna è una strada grande e solitaria. Tutto intorno c'è la campagna. Di questo sta parlando. Questo l'autore vuole che noi leggiamo e assaporiamo. E c'è il grano che ondeggia. Mentre leggiamo, ci rendiamo conto che si sta creando immagine complessiva della nostra mente. La sera, il caldo, il tepore, il riposo vicino o forse già presente, il grano che ondeggia, il vento. E a un certo momento parla di loro due, parla di loro che stanno in maniche di camicia. Vorrei che vi ricordaste questo particolare, perché lo troveremo fra pochissimo. Cosa vuol dire stare in maniche di camicia? Non avevano magliette a righe in quell'epoca. Avevano camicie che rimboccavano, di cui si rimboccava le mani. Due ragazzi che stanno in maniche di camicia. Mi vuol dire lei che cosa significa questo? Rilassati. Ma in maniche di camicia, capite, è un senso di perfino di ebbrezza nell'abbracciare la vita. Un ragazzo non sta in giacca e cravatta, cioè ai miei tempi si andava a scuola in giacca e cravatta per la verità, ma un ragazzo, se voi vedeste qui all'università un vostro collega che va in giacca e cravatta, beh, insomma, sarebbe un po' buffo. Io mi ricordo che una lira che veniva in pelliccia di bisone, una scuola, pelliccia di bisone. Era una cafona spaventosa con un sacco di soldi. E credeva di, naturalmente, di fare una bella figura di venire in zona. E invece la prendevano poi per quel che era, insomma. Ma maniche di camicia, essere in maniche di camicia. Uniamo qualcosa, proviamo a fare questa piccola invenzione. Se due ragazzi di 20 anni sono in maniche di camicia, e sono, come cosa ci potrebbe essere fra di loro? Quale oggetto ci potrebbe essere fra di loro? È aperta la porta in un modo... Che deve fare? Ah, ma qui c'è il problema. Può aspettare alla fine, gentilmente. Ecco. Zaino che si scorda. E poi tutti questi capelli buffissimi che vanno al di là di ogni possibile verosimiglianza estetica. Questa è una cosa... travolgente. Comunque, in maniche di camicia, cosa possono avere due ragazzi vicino? Lo dico io per aiutarvi. Possono avere, per esempio, un boccale di birra fredda d'estate. È verosimile questo? Parlano appunto di principesse, parlano di progetti futuri. Naturalmente hanno quello che hanno tutti i giovani, cioè un'incertezza totale per quanto riguarda il futuro. Ogni tanto mi capita di chiedere a qualche ragazzo del primo e del secondo anno, ma direi poi in realtà con una specie di meccanicismo professionale, lei in che cosa si laurea? E vedo degli occhioni delle fanciulline che si aprono dicendo ma io non so, perché non hanno il senso del tempo, dell'età, del tutto. E che ne so quando mi laurerò, se mi laurerò mai, se continuerò a studiare, no? Ecco. Oppure ci sono dei maschi invece, per dare un colpo al cerchio, una lavoro, che hanno progetti giganteschi. È venuto uno da me e dice vorrei laurearmi in storia della musica. Scusate queste piccole parentesi, ma se sono storia della musica è una cosa particolare. Sì, ma vorrei fare un discorso complessivo e complesso. Mi colpì molto questo accostamento complessivo e complesso. Che cosa? Sulla sinfonia. Ma quale sinfonia, dici io? Di tutti i tempi. Questo si fa autenticamente solitario. Sulla sinfonia di tutti i tempi. Ma lei quale letteratura ama? Gli ho chiesto io per cercare di ricondurre a più miti consigli. Quale letteratura? Tutta la letteratura. Questi sbalordimenti. E quindi a questi progetti invece giganteschi, no? Uno mi ha detto tempo fa, non sapeva con chi aveva a che fare, era all'università. E mi ha detto, sperando di avere in me una sorta di sponda, mi ha detto io mi interesso alla sociologia, dico io. Però dice vorrei una sociologia nuova, anche senza nuova, senza statistiche, ostia, dico io, come fare una sociologia senza statistiche? No, tutte queste percentuali, voglio cambiare la faccia della sociologia. E di fronte a fatti di questo genere poi rimane sorpreso, no? Però insomma questo fatto dei giovani che sono inebriati della loro amicizia, ne sentono la fatuità, questo senso del loro vivere insieme. Questo è bellissimo, non dovete dimenticarlo, perché poi sarà una delle cose per l'appunto che Flaubert sconfessa. Dice: questi sogni di amicizia sono sogni infatti. Andiamo oltre e andiamo a trovare il settimo capitoletto, girando una o due pagine, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, siamo ormai nel secondo capitolo, nel terzo capitolo. E questo capitoletto qui, per trovarlo, dovete andare a vedere Des femmes nonchalamment assises. Chi lo trova per primo? Io ho detto sono circa 7 pagine. Qua. Des femmes nonchalamment assises dans des calèches. 41. Tocca, però. 41. Però non è questo, è un po' oltre. Non è questo. E poi, però potevo dirlo, l'altro è troppo difficile. Se andate oltre troverete una vignetta con cui comincia il capitoletto nostro, che dice: Mais le soleil se couche. Ci siamo? Molto bene. A questo capitoletto diamo come titolo Parigi, o a Parigi, d'inverno. Parigi d'inverno. Allora, ci trasferiamo da Longchamp-sur-Seine a Parigi. E vi faccio notare una cosa che mi ricordo su cui avevo scritto il libro sul mattino. Vi faccio notare una cosa, che noi ci troveremo spessissimo di fronte a questi spostamenti. Da Longchamp a Parigi, da Parigi a Chartres, a un'altra parte ancora. E in Parigi Frédéric Moreau si muoverà costantemente, con amici e per andare in cerca della donna amata. La mia idea è questa, che questo libro sia un libro sulle strade. L'Education Sentimentale è idealmente dedicato all'ANAS. Come viviamo la nostra vita se non camminando, muovendoci, secondo itinerari prefissati spesso, la maggior parte delle volte. Cioè, per esempio, nel caso vostro, voi avete una casa e fate il tragitto casa-università che conoscete a memoria. Poi ci sarà la casa e la pizzeria a cui andate, il cinema a cui andate, il luogo di villeggiatura che cambierà magari di anno in anno. Ma sostanzialmente la vita è un gran camminare. Ieri guardavo i chilometri che ho nella macchina. Sono 70.000 chilometri. Ne faccio circa 12.000-13.000 l'anno. Quanti chilometri ho guidato in vita mia? Ho fatto un calcolo, 1.500.000 di chilometri, sicuramente. Non vi dico gli anni da cui ho la patente. Quanto ho camminato con queste gambe? E allora mi è venuta in mente questa strana idea. E se l'amore fosse essenzialmente un camminare, perché io devo spostarmi per andare a trovare la persona amata, questa si sposta per trovare me, facciamo un viaggio insieme, cioè questa natura motoria della nostra esistenza è abbastanza conturbante, e in questo libro mirabile noi vediamo che c'è uno spostarsi continuo, spesso insensato, cioè ci si sposta perché non è possibile evitarlo. Comunque, ora siamo a Parigi. Lui è solo, Delorier non è ancora venuto, mi sembra, a trovarlo a Parigi, ad abitare con lui, ed è uno studente solo in città straniera. Molti studenti, lo sapete, si trovano a Roma, ma per studio, perché in realtà vengono da altre città. E qui cosa fanno? Cosa fa un ragazzo che dalla provincia, qualcuno per caso che venga dalla provincia o da altre città, Ma anche dove? Da me detto il tronto. Benedetto, la cosa vera che aveva accennato. San Benedetto il tronto. Allora mettiamo, lei era già stata a Roma prima? Allora no. Ma mettiamo che uno non fosse mai stato a Roma, va qui, viene qui per studiare. Che fa? È difficile orientarsi a Roma, trovare un ambiente. E per un ragazzo è più facile, però sostanzialmente rimane sempre un dover superare delle barriere. E la prima cosa che uno, un giovane fa quando arriva in una grande città come Parigi, lui che viene da un paesino, da una provincia, è che va a camminare nel centro. E vede questo centro, poi a Roma diremmo, non so, Piazza di Spagna, Via Condotti, lo vede come pieno di movimento e ostile nel suo essere chiuso. Tutta questa gente che si muove. Non so se vi ho mai raccontato, che forse ve l'ho accennato nelle lezioni scorse, di un libro di Paul Morano, che era un coetaneo di Proust. Ve l'ho parlato mai di questo? No. Col Porporano raccontava di un viaggio in Oriente, in India, e la cosa che lo colpiva era che in India tutti sono sdraiati per terra, non so se lo sapete, tutti sono sdraiati per terra. La stazione di Nuova Delhi, leggevo in un altro libro, è piena di persone con due cenci addosso, sdraiati per terra. Quando poi delle persone lo riaccompagnarono, all'ombra, questi furono loro a rimanere stupefatti, perché dicevano: ma come mai a Londra stanno tutti in piedi? Perché si muovono tanto? No? Direi anche qui in Italia, se voi andate da un paese del sud a Milano, voi vedete una differenza enorme. In un paese del sud le persone sono stanziali spesso, e invece in un posto come Milano si muovono freneticamente. Questo è un concetto su cui dobbiamo tornare, questa idea che la vita sia muoversi. Lui vede comunque di tutto intorno a sé il movimento di Parigi, è vero. E secondo voi, quando ci si muove di più nell'arco dell'anno, in quale stagione ci si muove di più? D'inverno. Perché l'inverno è la stagione del lavoro, no? Sentite questa descrizione che fa. Dunque, aspettate che ho perso il segno. Ecco qua. Ma il sole tramontava e il vento freddo sollevava turbini di polvere. I cocchieri abbassavano il mento nelle loro sciarpe, le strade si mettevano a girare più in fretta, il selciato strideva e tutti gli equipaggi, dei carri, delle carrozze, scendevano al gran trotto lungo il viale, sfiorandosi, oltrepassandosi, scartandosi gli uni con gli altri, e poi sulla piazza della Concorde si disperdevano. Dietro le Tuileries il cielo prendeva la tinta dell'Artesia, gli alberi del giardino formavano due masse enormi violacee sulla cima, i lampioni a gas si accendevano e la Senna, verdastra in tutta la sua estensione, si lacerava in marezzature d'argento contro le pile dei ponti. Lui andava a cena con 43 soldi a disposizione, cioè una cifra esigua, perché un ragazzo non può andare in grandi ristoranti, in un ristorante a Rue de la Harpe, e guardava con sdegno il vecchio banco di mogano, i tovaglioli macchiati, le posate unte e i cappelli appesi contro i muri. Quelli che lo circondavano erano studenti come lui. Parlavano dei loro professori, delle loro amanti. A lui non importava affatto dei professori, e forse aveva un amante. Per evitare le loro gioie arrivava il più tardi possibile. garzoni affaticati dormivano in un angolo e un odore di cucina, di lampadario e di tabacco empiva la sala deserta. E poi risaliva lentamente le strade. I riverberi si ondeggiavano e facevano tremolare sul fango i loro lunghi riflessi giallastri. Ombre scivolavano al bordo dei marciapiedi con parapioggia. Il pavimento, il selciato, era grasso, la nebbia scendeva e a lui sembrava che le tenebre umide, avviluppandolo, scendessero indefinitamente nel suo cuore. Sentite questo senso di estraneità, questo senso di estraneità che prova il ragazzo venendo nella città. Cosa vuol dire essere straniero? Vuol dire non avere contatti, rapporti con le persone che ha intorno. Molti non viaggiano, non amano viaggiare. Non so chi di voi ama viaggiare, chi ama di meno. Chi non ama viaggiare normalmente ha questa motivazione: non voglio sentirmi straniero. Infatti, appena uno viaggia, cerca in qualche modo disperatamente qualche aggancio con persone del posto, oppure magari con dei suoi compatrioti. Se voi andate all'estero, vedete che gli italiani si cercano fra di loro, gli spagnoli pure. Se percepite in un ristorante qualcuno che parla italiano, avete una sorta di riserbo e d'altra parte di familiarità, perché sentite che sta parlando la vostra stessa lingua. È il tramonto ed è inverno. Vi faccio notare un piccolo dettaglio bellissimo, che i cocchieri hanno il mento nella sciarpa, nella cravatta. Perché? Perché fa freddo. Ma vedete come, per dire che fa freddo, uno scrittore come Flaubert ricorre a dei dettagli concreti. Per far sentire, per esempio, che un ambiente è sordido e soffocante, dice che le mura trasudavano. Ecco, questo vuol dire il realismo di Flaubert. Cioè, raccontare le cose attraverso gli oggetti. Fermiamoci qui.